Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Devo dire che solo a questo Papa poteva venire in mente di organizzare la presentazione del suo primo libro con un cardinale veneto, un carcerato cinese e un comico toscano. È una unione bellissima. Devo dire che mi sentivo lì a questo tavolo l'unico senza collarino, l'unico senza una tona, con vesti. Avevo una voglia di avere un cappellino anch'io, perché mi piacerebbe tanto, insomma, ecco. C'ho una vocazione fin da piccino io, mi sarebbe piaciuto proprio fare il sacerdote. Addirittura quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre: il Papa. Proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. È stato lì che ho deciso: se si fossero inginocchiati avrei fatto il Papa, ecco. Vedete a volte come è facile scoprire qual è il proprio futuro, la propria vocazione. Questo era Benigni, naturalmente, che diceva che voleva fare il Papa, però evidentemente invece quest'altra era la sua strada. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte. Questa volta lo dico proprio dall'inizio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché oltre ai vari argomenti di cui parleremo questa sera, vorrei lanciarvi due input. Uno, ritornando sui fatti di Colonia, sulle molestie di massa sessuali alle donne da parte di immigrati a Colonia, ma anche in altre città tedesche e non solo. Se avete fatto caso, in questi giorni più osservatori e osservatrici commentano che è in atto evidentemente uno scontro di civiltà, cioè tra culture piuttosto opposte tra loro, parte occidentale, diciamo, dove si considerano certi valori universali, come dovrebbe essere la parità tra donne e uomini, anche se anche oggi l'ennesimo femminicidio in Italia, ma insomma, diciamo, come principi generali questi sono, mentre nella cultura musulmana la condizione della donna è quella di essere comunque sempre sottomessa all'uomo. Qualcuno la pensa così, qualcuno dice che c'è una spaccatura anche interna allo stesso mondo musulmano, cioè tra i più radicalizzati, quelli più moderati. Voi cosa pensate? C'è in atto effettivamente, e emergerebbe da quello che è successo a Colonia e nelle altre città, uno scontro di civiltà? 349-238-6666 il numero per gli sms, e poi come sempre c'è per voi giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Ci occuperemo di molte altre cose, naturalmente dell'attentato in Turchia, l'ennesimo attentato in un cuore storico di una città così importante e così turistica, e quindi ancora una volta conferma che i terroristi vogliono innanzitutto creare un grosso vulnus anche nell'economia e nella cultura di un paese, e soprattutto vogliono estirpare, quindi impoverirlo ed estirpare anche il turismo in molti luoghi. Avete visto in Egitto, in Tunisia, in realtà poi il primo grosso in Egitto c'era stato già nel 97. E poi ci occuperemo anche della vicenda di Quarto, che continua ad avere degli sviluppi non solo nell'indagine del PM Woodstock, ma anche nelle reazioni della sindaca, che abbiamo avuto qui per primi il giorno della Befana qui a Effetto Notte, la sindaca Capozzo, che già allora aveva detto che non si sarebbe dimessa. Ne faremo sentire un breve passaggio, però avremo un deputato del Movimento 5 Stelle questa sera a parlarne, perché è stata espulsa ufficialmente dal Movimento 5 Stelle. Lei però da sindaca non si dimette, e pare che alcuni vertici del movimento sapessero che lei era ricattata da un consigliere che poi era stato espulso, mandato via. Insomma, vari sviluppi, anche su questo potete esprimere le vostre opinioni, così anche come sulla decisione della Danimarca, che in realtà aveva annunciato già nei giorni scorsi, che ha deciso che esproprierà gli immigrati dei loro beni, eccetto quelli, diciamo, d'affetto, come le fedi nuziali, per coprire le spese di accoglienza e della loro presenza, insomma, nei centri di accoglienza. Cosa ne pensate? Ritenete che sia una buona proposta questa, anzi una legge della Danimarca, è passata proprio come legge anche in accordo con l'opposizione? Voi sareste d'accordo? È una cosa che proporreste anche in Italia? Quindi ne avete, insomma, di fatti sui quali intervenire. Poi parleremo anche degli allenatori traballanti di almeno due squadre italiane, e direi a questo punto di partire, naturalmente, prima di addentrarci negli argomenti con gli ospiti, al riassunto della giornata. L'attentato jihadista a Istanbul, i morti sono 10, 8 sono cittadini tedeschi, 15 i feriti. I terroristi, dice la cancelliera Merkel, sono nemici di tutta l'umanità. Immigrazione, come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca sequestrerà i beni dei migranti per coprire le spese dell'accoglienza. La vicenda del comune di Quarto, il Movimento 5 Stelle espelle la sindaca Capuozzo, ma lei non si dimette. Napoli, una ragazza di 19 anni muore durante un aborto in ospedale. I parenti presentano un esposto alla polizia e per la donna morte di parto gli ispettori del ministero rilevano criticità in 3 ospedali su 4. Privacy, Strasburgo dice sì al controllo sull'uso della mail da parte dei dipendenti, l'utilizzo per fini privati giustifica il licenziamento. Sanremo, bis di Conti sul palco Garco, Virginia Raffaele e Ghenea, ospiti Ramazzotti, Zero, Pausini e Pu. Calcio, Roma e Milan, panchina attaccata a un filo, cessione a sorpresa per l'attaccante Luiz Adriano, non giocherà in Coppa Italia. E partiamo quindi dall'attentato jihadista a Istanbul, nel cuore storico della città turca, e sarebbe stato un cittadino saudita di origini siriane di 28 anni a farsi saltare in aria questa mattina nel cuore appunto turistico della città sul Bosforo, ed erano turisti quasi tutti tedeschi, 8 su 10 e più un peruviano le vittime dell'attentato che riporta il terrore quindi nella megalopoli turca sotto il segno dell'ISIS. Secondo il governo turco infatti l'uomo identificato come Nabil Al-Fadli era un membro di Daesh, che è il nome arabo per l'ISIS, arrivato da poco in Turchia dalla Siria. Non era noto ai servizi turchi. La cancelliera Merkel dice: i terroristi sono nemici di tutte le persone libere, sono nemici di tutta l'umanità, il loro obiettivo è appunto la libertà della nostra vita, aggiunto sottolineando che la libertà vincerà sul terrore. Anche la Casa Bianca condanna questo attacco come uno spregevole attacco, insomma un attentato che viene condannato da tutto il mondo. Cordoglio per le vittime, ferma condanna da parte di tutto il mondo politico e delle più importanti istituzioni europee. La reazione di fronte alla nuova strage terroristica è unanime. La cieca e insensata violenza non ci farà arretrare di fronte ai nemici della democrazia e della pacifica convivenza, ammonisce il Presidente della Repubblica Mattarella. La battaglia contro il terrorismo è durissima, ma bisogna combatterla, dice il Premier Renzi, affrontando anche nelle nostre terre la questione dei valori e dell'identità. Una battaglia per la quale, aggiunge il Ministro degli Esteri Gentiloni, Italia e Turchia sono più che mai unite. Ferma condanna arriva naturalmente dalla Germania. Per la cancelliera Merkel il terrorismo ha di nuovo mostrato il suo volto peggiore ed è la conferma che dobbiamo agire in maniera decisa, mentre dalla Francia interviene il premier francese Manuel Valls. Ormai è ufficiale, siamo di fronte ad una guerra che ci mette tutti sullo stesso piano. Mentre il ministro degli esteri russo definisce ciò che è successo un crimine cinico e invita al più presto la comunità internazionale a formare un fronte unico contro il terrorismo. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso di immigrazione. Come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca sequestrerà i beni dei migranti per coprire le spese dell'accoglienza e il soggiorno nei centri. Sul controverso provvedimento il governo danese conservatore ha annunciato in una nota citata dal sito della TV NDTV di aver trovato un accordo con l'opposizione su questa legge. Il governo ha detto che dal sequestro sono esclusi alcuni effetti personali come appunto le fedi nuziali. Cosa ne pensate di questa legge ormai, di questa iniziativa che è diventata legge della Danimarca? 349-238-6666 per le vostre riflessioni, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Sentiamo invece che riflessioni fa Di Battista del Movimento 5 Stelle a 8:30. Riusciamo a sentire qualche passaggio prima che chiuda del tutto? È lo stesso nemico, dottoressa Gruber. È lo stesso, da Milano. Io apprezzo tutte le domande che lei fa. Vorrei soltanto che la domanda che lei ha fatto, ma allora Di Maio non si è accorto di nulla? Tra l'altro, ripeto, un infiltrato su 2000, su 6 anni che il Movimento 5 Stelle è una forza politica importante. Unico comune del napoletano, del leader nazionale. Io vorrei soltanto che si chiedesse, Presidente Renzi, che deve pubblicare gli scontrini, ma lei non si è accorto che un tal Buzzi si sedeva come commensale durante le... Guardi, lei sa bene che io ho fatto Renzi esattamente questa domanda in questo studio. Io l'ho appena detto. Che un suo commensale è un tal Buzzi, perché ci sono delle cose molto molto gravi. Non ci siamo accorti di un infiltrato, l'abbiamo comunque espulso appena la magistratura ci ha fornito delle informazioni. E va bene, su questo poi torneremo anche qui con un deputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. Dicevamo quindi che a proposito di immigrazione, intanto in Germania ci sono nuovi sviluppi nelle indagini sulle molestie sessuali di massa contro le donne da parte di uomini immigrati a Colonia, ma anche in altre città. Anzi, le denunce sarebbero arrivate ormai a oltre 600 e in un primo tempo sembrava dai rapporti delle forze dell'ordine che non fossero assalti questi organizzati, coordinati, no? Nelle diverse città. Adesso invece sembra che il rapporto delle forze dell'ordine dica di sì. Raffaella Calandra, nostra inviata in Germania. Raffaella, com'è questa contraddizione nell'arco di qualche ora, insomma, di poche ore? Allora, è una contraddizione che innanzitutto bisogna spiegare con le parole e che sta innanzitutto nei rapporti politici. Fammi dire prima soltanto una battuta a proposito della notizia che dicevi prima sulla Danimarca. Sì. Essendo io stata proprio sul confine tra Germania e Danimarca, ho visto i migranti che vanno in Danimarca, che vogliono vivere in Danimarca, ho visto le cose che portano con sé, la loro vita stipata in sacchetti dell'IKEA, e la sola idea, devo dire, che il governo danese pensi cofinanziare il mantenimento di questi migranti confiscando loro i pochi beni che portano con sé, devo dire che a me personalmente fa venire i brividi. Si riempiranno di sacchetti dell'IKEA, insomma, i governanti danesi. Va bene, Raffaele. Invece sulle vicende, sugli assalti, le molestie sessuali. Sull'organizzazione. Sì. Allora, innanzitutto il ministro della giustizia aveva parlato di organizzazione. Bisogna intendersi per che cosa significhi organizzazione. Mm. Di sicuro queste persone si sono date appuntamento su WhatsApp o su Facebook, sui vari social network, si sono dati appuntamento nella piazza principale di Colonia. Quindi da questo punto di vista c'è stato sì organizzazione, ma non nel senso in cui gli investigatori intendono, laddove per organizzazione si parla di un piano premeditato con una sorta regia e quindi con qualcuno che dia un ordine, diciamo così. Non si tratta di criminalità organizzata, gli investigatori tedeschi da subito lo dicono, si tratta di una organizzazione nel senso di pianificazione da parte di queste persone del vedersi lì a Colonia, probabilmente anche con le intenzioni di fare quello che hanno fatto, però non c'è l'idea di un gruppo organizzato con qualcuno che impartisca un ordine, ecco, è questo quello che bisogna chiarire. Ultimo inciso, ho letto stralci dei verbali delle denunce delle donne di Colonia, oggi la Bild le ha pubblicati moltissimo, e devo dire sono terribili, perché si tratta di vere e proprie aggressioni e non semplicemente di palpeggiamenti come all'inizio poteva sembrare. Grazie a Raffaella Calandra dalla Germania. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Buon proseguimento. C'è Daniele da Ferrari, dice, si chiama Woodco con un Woodstock, avevo delle reminiscenze rocchettare. Daniele, chiaramente il PM è John Woodcock, quello dell'inchiesta su Quarto di cui parleremo questa sera. A proposito, appunto, siamo sulla politica, siamo proprio su questa notizia col Movimento 5 Stelle, che ha deciso di espellere ufficialmente oggi la sindaca del Movimento 5 Stelle di Quarto, Rosa Capuozzo. Lei però non si dimette, ci sono 15 consiglieri del Movimento 5 Stelle su 24 che le hanno promesso sostegno e rischiano a loro volta probabilmente l'espulsione, anche se Renzi difende la sindaca. Poi sentiremo questo passaggio e cercheremo di capire perché. Ci sono le primarie, intanto si parla delle primarie a Milano, sapete che ci sono le elezioni in primavera alle comunali, non c'è però l'unità nel centrosinistra. Sala, Balzani, Maiorino, Iannetta. Nel centrosinistra di Milano non si trova la sintesi dell'unità e alla fine questi quattro candidati si sfideranno alle primarie del prossimo 7 febbraio per tentare di conquistare Palazzo Marino. Iannetta è oggettivamente fuori dai giochi. Il tentativo di mediazione di SEL per unificare in una lista il vice sindaco Balzani e l'assessore alle politiche sociali Maiorino è sostanzialmente fallito. Nessuno ha fatto marcia indietro. Maiorino ha detto che la sua scelta non è per una questione di puntiglio, ma per andare avanti per la battaglia delle idee. La Balzani si è detta disponibile al ticket, senza però specificare chi avrebbe fatto numero due in caso di vittoria del centrosinistra. Quindi Sala si trova oggettivamente in vantaggio tecnico e politico rispetto agli altri tre candidati, perché il Partito Democratico punta essenzialmente sul suo nome per il dopo Pisapia. Ma tutto accade al netto delle decisioni che il centrodestra prenderà in materia di candidature. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda invece Roma, c'è Roberto Giachetti del PD che è quasi pronto a sciogliere la riserva e a candidarsi alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio. Poi avremo tempo di seguire fino alle comunali. Per la privacy, questa notizia: i datori di lavoro possono controllare l'uso che i dipendenti fanno della mail aziendale e sono anche autorizzati a licenziarli in caso di utilizzo a fini personali. Questo è quanto ha decretato la Corte Europea dei Diritti Umani, che in una sentenza ha stabilito che una società privata non viola il diritto alla privacy di un dipendente quando controlla le sue comunicazioni sugli account aziendali. Dall'estero, a poche ore dal discorso alla Nazione del Presidente americano Obama, dice Obama: l'America resta di gran lunga il paese più forte del mondo, ha rivendicato i risultati raggiunti nel corso della sua presidenza respingendo durissime critiche della destra. Dice: l'economia in questo momento sta andando meglio di ogni altra economia al mondo, sul fronte del terrorismo non ci sono minacce per la nostra esistenza. Tra l'altro c'è un sondaggio che è stato pubblicato tra la CBS e New York Times, secondo il quale l'America è divisa su Obama, il 47% a suo favore, il 46% invece no degli intervistati lo boccia, un rating più alto di quello ottenuto da George W. Bush nell'ultimo anno della presidenza, era il 29% addirittura, ma più basso di quello di Clinton che era al 60%. Di nuovo in Italia, Diana Bracco, vicepresidente di Confindustria, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di evasione fiscale e appropriazione indebita, reati che avrebbe commesso in qualità di presidente del CDA di Bracco S.P.A. E poi la morte di una ragazza di 19 anni a Napoli dopo un'interruzione volontaria di gravidanza all'ospedale Cardarelli. La ragazza, Gabriella Cipolletta, aveva scoperto di essere incinta per caso dopo aver iniziato una cura dermatologica. A ucciderla sembra un'emorragia sopraggiunta durante l'intervento di interruzione di gravidanza. I suoi parenti hanno fatto un esposto. E la notizia arriva tra l'altro nel giorno della diffusione della relazione preliminare della task force di ispettori del Ministero della Salute inviati negli ospedali dove a fine dicembre, vi ricordate, sono decedute 4 donne che erano in procinto di partorire. Sono state riscontrate criticità in 3 ospedali su 4, in quello di Brescia, Bassano del Grappa e San Bonifacio in provincia di Verona. Nessun problema invece è emerso nell'ospedale Sant'Anna a Torino. Per la cronaca, la giovane americana strangolata a Firenze starebbe emergendo una pista privilegiata tra le altre sulle quali gli investigatori continuano comunque a lavorare nelle indagini sulla morte di Ashley Olsen, la 35enne statunitense che è trovata strangolata nel suo appartamento a Firenze. Sembra che siano state rilevanti le immagini tratte con le telecamere che ci sono in quella zona. E poi c'è stato un ennesimo femminicidio, dall'inizio dell'anno sono almeno 5 o 6, un marocchino che ha strangolato a Cremona la moglie in un biglietto. Lui ha scritto: voleva lasciarmi. E poi a Bologna un uomo che ha riportato la moglie in ospedale dicendo che era svenuta, in realtà era morta. Lui ha detto che si è impiccata, gli inquirenti stanno indagando. Lui tra l'altro avrebbe dei precedenti penali, aveva scontato una pena di 6 anni e mezzo ridotta con l'indulto per violenza sessuale di gruppo. Si sa che insomma uno che ha fatto violenza sessuale di gruppo merita qualche attenuante. Musica. Questi sono i fan di David Bowie, che è morto 2 giorni fa a 69 anni, che stanno cantando un sacco di omaggi a lui davanti alla sua casa di Londra. Pensate che il Duca Bianco lascia una fortuna da 230 milioni di dollari in eredità a sua moglie e suoi 2 figli, la seconda moglie, la modella Iman, e poi il figlio Duncan, che ha 44 anni, che è figlio della prima moglie, e la figlia invece Alexandra, che ha 15 anni, della seconda moglie. E poi il Sanremo, invece, per andare sulle cose più italiane, italiche, bis di Conti, sul palco ci sarà lui, e poi naturalmente come conduttore, e poi chiama Garco, anche Manuel Garco, come valletto. Ci sarà Virginia Raffaele, la comica, Ghenea, ospiti ci saranno tra gli ospiti Ramazzotti, Zero, Pausini e Pu. E per il calcio invece la notizia è di allenatori che stanno traballando, ne parleremo poi più tardi con Dario Ricci. E invece, a proposito della notizia extra, nuovi guai per McDonald's, denuncia dei consumatori dell'Unione Europea per distorsione dei contratti di franchising, non solo evasione fiscale quindi per McDonald's, ma la nuova tegola abbattutasi sul gruppo riguarda i contratti capestro che impone a coloro che fanno franchising, obbligati, pensate, ad affittare le sue proprietà immobiliari a prezzi sino a 10 volte superiori a quelli di mercato, anche in tutta Europa, e a farne le spese sono i consumatori che si trovano a pagare hamburger molto più cari di quelli venduti nei ristoranti gestiti direttamente dalla McDonald's. Direi che per il momento possiamo fermarci, le notizie sono state già tantissime. Vedo intanto le vostre opinioni sia al 349-238-6666, il numero per i messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito sia della decisione della Danimarca di espropriare i profughi dei loro beni per coprire le spese di accoglienza, sia sulla presunto scontro di civiltà che emergerebbe dai fatti di Colonia. dice Edo da Bologna, se la nostra civiltà consta nel rapinare i profughi, mi domando se sia lecito parlare di scontro di civiltà o di guerra di barbari. Mette insieme le due notizie Edo da Bologna. Invece Bruno scrive, i profughi diverranno padroni come è avvenuto in Palestina. Alberto, sarebbero bastati 50 poliziotti corpulenti e qualche colpo di pistola in aria per disperdere i molestatori di Colonia. Cosa avrebbe fatto gli hooligans olandesi a Roma in mezzo alle donne? A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra poco cominceremo a approfondirne una di notizia, quella dell'attentato a Istanbul, con anche il suo forte valore simbolico. Intanto, a proposito di invece dei temi che avevo lanciato, sia quello che riguarda la Danimarca, che per legge adesso esproprierà i migranti per coprire con i loro beni, anche se Raffaella Calandra, inviata in Germania, diceva ma io li ho visti questi che arrivano in Danimarca con dei sacchettini con tutta la loro roba dentro, cioè, comunque la Danimarca ha deciso di espropriarli dei loro beni per coprire le spese di accoglienza. E poi l'altra notizia, cioè l'altro spunto che vi lancio, sia per le vostre riflessioni sulla pagina Facebook del programma, sia al 349-238-6666, e secondo voi dalle molestie sessuali di massa a Polonia non solo emergerebbe uno scontro di civiltà, come dicono diversi osservatori in questi giorni? Enrico scrive, lo scontro di civiltà c'è se si accettano le regole dello scontro di civiltà. Mi spiego, io non faccio a botte su se un delinquente mi sfida a fare botte. Sicuramente c'è stata una provocazione da parte di alcuni, forse pochi, immigrati musulmani, alla quale bisogna reagire non con lo scontro e nemmeno col buonismo, ma con la severità e la fermezza contro chi infrange le nostre regole, i nostri valori condivisi. Questo. E poi invece chiede anche, le nostre donne femministe dove sono finite? Negli anni 70 erano in piazza a gridare per i loro diritti, oggi mi sembrano un po' addormentate. Enrico, vedevo che vari movimenti, diciamo, della galassia del movimento femminista italiano parlavano di raggiungere Colonia il 4 febbraio, dove c'è il carnevale famoso di Colonia, che tra l'altro è il primo giorno, è dedicato alle donne in genere tradizionalmente. Vedremo cosa avverrà. E poi Paolo dice, uomini che aggrediscono le donne, branchi di uomini che aggrediscono uomini isolati. Certo, Roberti, che ci vuole proprio una bella fantasia a chiamarla civiltà, E poi i vostri molti altri messaggi, ma direi adesso di riandare sulle notizie più importanti, se avete acceso la radio, non puntualmente alle 21, ma adesso. Attentato jihadista a Istanbul, strage di turisti tedeschi, un kamikaze dell'ISIS fa esplodere vicino alla Moschea Blu. La sindaca di Quarto non si dimette, Grillo la espelle, intanto il triunvirato, il Movimento 5 Stelle, si difende, mentre il PD dice si comportano come le tre scimmiette, Di Maio, Di Battista e Fico. Renzi dice ad aprile partirà la campagna referendaria sulle riforme costituzionali. E poi show di Benigni in Vaticano per presentare l'ultimo libro del Papa, da piccolo dice volevo fare appunto il Papa. E poi muore a 19 anni dopo l'aborto a Napoli una ragazza, la famiglia sporge denunce. Poi, a proposito dei decessi in sala parto di dicembre, gli ispettori hanno rilevato criticità in 3 ospedali su 4. E siamo sull'attentato a Istanbul, un attentato che ha provocato, vi dicevo, 10 morti, che ha però anche un forte valore simbolico perché è avvenuto nel cuore turistico della città, nel cuore storico e turistico, e anche perché ci spinge a cercare di capire se la posizione che la Turchia ha tenuto finora nei confronti dell'ISIS, che molti nella comunità internazionale hanno definito ambigua, sia cambiata. Però prima la cronaca con il nostro Marco Barbonaglia da Istanbul. Ciao Marco. Ciao Roberta. Quindi si parla di questo cittadino saudita di 28 anni, c'è la rivendicazione ufficiale dell'ISIS quindi in questo attentato? C'è la conferma da parte delle autorità turche, il ritratto di questo attentatore era stato tracciato in un primo momento da Recep Tayyip Erdogan in persona, dopo sono arrivate varie conferme, vari livelli e i dettagli di questa persona. Oggi quest'uomo adesso ha un nome, si chiamerebbe Nabil Fadli, 28enne, cittadino siriano nato in Arabia Saudita, naturalmente militante dell'ISIS. L'attentato, come hai detto, ha soprattutto un valore simbolico, perché noi oggi abbiamo visto, per fortuna, non c'è stato un numero più elevatissimo di morti, non voglio dire che 10 morti siano pochi, 15 feriti assolutamente, ma dobbiamo tenere conto che l'esplosione, secondo quanto riportano tutti i testimoni, è stata violentissima. Se pensiamo in quale zona è stato portato, cioè in una zona che in una giornata d'estate, per esempio, ha un afflusso altissimo di turisti, possiamo immaginare che in un altro momento i morti li staremmo contando su numeri 10 volte più alti, probabilmente. Ma Istanbul in questo periodo è in bassa stagione e la paura del terrorismo aveva già svuotato completamente la parte storica, tanto che a passeggiarci nei giorni scorsi aveva un'aria spettrale. Ma questa è stata una fortuna in questo caso, perché i danni sarebbero stati infinitamente più elevati in un altro momento. Senti, Marco, diciamo che adesso ne parleremo con un ricercatore dell'ISPI tra poco, però ho letto anche, parleremo della strategia della Turchia nei confronti della lotta all'ISIS, però anche la Farnesina, tramite il sito Viaggiare Sicuri, questo lo dico anche alle ascoltatrici e ascoltatori soprattutto, ha invitato a evitare la zona di Sultanahmet, che appunto è piena di bellezze, di monumenti, di grandissimo valore storico, no? In questo momento Sultanahmet fino adesso non era stata ritenuta una zona particolarmente pericolosa, era stata disertata dai turisti che da Occidente vedevano tutto quello che stava capitando e non ritenevano probabilmente il caso di venire in Turchia in massa in questo periodo. Normalmente le zone che vengono ritenute più a rischio sono la zona di Taksim, comunque sì, in generale ci sono alcune zone ad Istanbul che possono essere a rischio, chiaramente Sultanahmet può essere una di quelle, come oggi purtroppo abbiamo visto. È un attentato anche che per la prima volta va a colpire in questa maniera Sultanahmet. Ce n'era stato un anno e mezzo fa circa, ma si trattava di una donna che si era fatta esplodere contro la polizia turistica che era Sultanahmet, non contro un gruppo di turisti come abbiamo visto oggi. Colpisce un simbolo, colpisce l'economia del paese sicuramente, perché è facile immaginare che i turisti verranno molto meno ancora. E quello soprattutto l'obiettivo, anche dicevo all'inizio, anche per quanto riguarda la Tunisia, l'Egitto, no? C'è proprio la strategia del terrorismo che sembra concentrarsi sempre più sui settori turistici dei paesi presi di mira. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul, e sempre a Istanbul saluto Carlo Frappi, che è ricercatore associato dell'ISPI e vive appunto a Istanbul. Buonasera Frappi. Buonasera. Quindi dicevo prima che questo ci fa, ci spinge anche a interrogarci quello che sta succedendo in Turchia, perché non è il primo attentato, l'altro mi pare fosse a ottobre, sul fatto che la Turchia finora è stata vista dalla coalizione internazionale che sta combattendo l'ISIS come sempre su un po' sul crinale, no? In una posizione ambigua, sembrava più interessata a lottare contro i curdi e le loro aspirazioni di indipendenza piuttosto che contro l'ISIS. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa negli ultimi mesi? Ma non c'è dubbio che la Turchia abbia soffiato pesantemente sul fuoco della contrapposizione settaria ai suoi confini meridionali. È cambiato però che, preso atto di un crescente isolamento internazionale nel quale proprio questo rovesciamento di una tradizionale politica di non ingerenza negli affari medio orientali aveva comportato, innanzi a questo crescente isolamento la Turchia si è riavvicinata ai tradizionali alleati euroatlantici, oggi sostiene sicuramente con minore ambiguità che in passato la coalizione internazionale attiva in Siria, ha concesso a partire da quest'estate l'uso del proprio spazio aereo, delle proprie basi aeree per colpire le postazioni dello Stato Islamico in Siria, e soprattutto garantisce oggi un controllo del confine, del lungo confine, oltre 900 chilometri con la Siria, sicuramente più stretto, in maniera più stretta di quanto non facesse in passato. Questo sicuramente in uno dei due grossi, come faceva giustamente riferimento lei, in uno dei due grossi ambiti, no, aperti dalla lotta turca al terrore, che evidentemente non è soltanto una lotta allo Stato Islamico. Ma secondo lei può essere, Frappi, l'inizio di una serie, nel senso che la Turchia è vero che negli ultimi 25 anni, insomma, di attentati ne aveva avuti diversi, adesso questa è una situazione diversa, no? Con l'avanzare dell'ISIS, potrebbe essere un inizio, questo potrebbe diventare la Turchia una delle nazioni nel mirino, anche a proposito del turismo di cui parlavamo prima, no? Abbiamo visto cosa succede in Tunisia e in Egitto. Insomma, quanto di simbolico ci fosse in questo attentato è evidente, sono pienamente d'accordo con l'analisi che avevate fatto prima. Di fatto la Turchia oggi è molto vulnerabile se non altro perché ha mantenuto una politica di porte aperte rispetto ai profughi siriani, una politica di porte aperte che ha portato qualcosa come 2 milioni e mezzo, le stime ovviamente variano molto, di profughi siriani nel paese, assieme ai quali evidentemente sono entrate grosse fasce poche o controllabili. Al di là poi comunque dei simpatizzanti per lo Stato islamico che ci sono nello stesso paese, è inutile negarlo. In realtà forse l'aspetto più problematico, anche se tutto sommato ha fatto meno clamore e ha meno eco sui media internazionali, è invece quello della guerra che prosegue nel sud-est, nel Kurdistan, se vogliamo, che a partire da luglio ha fatto vittime quantitativamente incomparabili rispetto a quelle di questa mattina. Lì forse il rischio di scivolamento verso una fase di instabilità difficilmente controllabile è molto più elevato rispetto a quello della minaccia portata dallo Stato islamico. Ma dice a proposito della lotta contro gli indipendentisti del Kurdistan, oppure non ho capito quali sono i soggetti? Sì, sostanzialmente a partire da quest'estate, quando la Turchia, per volere di Erdogan stesso, ha lanciato questa duplice lotta al terrorismo, quindi la lotta allo Stato islamico, il contrasto allo Stato islamico da una parte, ma soprattutto al terrorismo o alla guerriglia, se la si vuole guardare da un altro punto di vista, dei curdi e principalmente del PKK. Quindi a partire da quest'estate, con la ripresa dei bombardamenti, con la ripresa di coprifuoco in diverse province del paese che si vedevano da una ventina d'anni, è ripresa una sorta di guerra civile strisciante, che anche qui i numeri evidentemente vanno presi con il beneficio del dubbio, ma la forbice parla di 2.000-3.000 morti nel corso degli ultimi 6 mesi. Parla ancora di qualcosa come 100.000 sfollati secondo le cifre ufficiali delle autorità turche e 200.000 secondo i partiti curdi. Evidente che il peso di questa contrapposizione interna è insomma ben più ingente, ben più profondo di quanto non sia la minaccia dello Stato islamico, a mio giudizio. Insomma, la Turchia stretta un po' tra l'incudine e il martello. Grazie Carlo Frappi, tanto. Grazie da Istanbul. Grazie a voi. Vediamo se sentiamo un po' di Crozza Razzi, un po' di Zeta ci sono di martedì. Il clima internazionale è teso, no? C'è tensione. Ha visto anche cosa è successo oggi, avrà visto, no? Cosa è successo oggi a Istanbul. Siamo sul quello pezzo. È il mondo della rabbia. Vabbè, sì. Te lo dice la parola stessa, arrabbia. Senso, quando cosa? C'è tutta questa rabbia, è normale che poi un pazzo ti tira una bomba, soprattutto se non c'è una cantina dove andare a sfogare la rabbia. Ma lasci stare comunque, le cantine. Fortunatamente non è successo in Europa, che ci avrebbe fatto commuovere, scrivere tutti, c'è sui Charlie e Mo. No, non era Charlie e Mo. Questa è la riflessione di Razzi Crozza. Ora, prima di lasciarci brevemente qualcun'altra delle vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, Gianfranco dice: ci si trova di fronte a reati che si perseguono i colpevoli con un giusto processo. A proposito dei fatti di Colonia, se fossimo in Italia sarei preoccupato per la strumentalizzazione politica. Le istituzioni tedesche sono più serie da questo versante. Mentre Maria, a proposito dei fatti di Colonia, del possibile scontro di civiltà, dice: scontro fra inciviltà, scontro fra maschilisti, dice, e non ha senso fare la classifica dei peggiori. Ci sentiamo tra poco, parliamo del caso di Quarto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo sempre insieme fino alle 22, Roberta Giordano con voi. Continuano ad arrivare i vostri messaggi su due riflessioni che vi ho chiesto questa sera. Uno sulla decisione della Danimarca che per legge esproprierà i migranti dei loro beni per coprire le spese per l'accoglienza e per i centri in cui soggiorneranno. E ne ho visti diversi molto critici dei vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. L'altro argomento è quello dei fatti di Colonia, le molestie sessuali di massa Colonia e in altre città tedesche. Per molti osservatori è in atto uno scontro di civiltà. Secondo voi, scrive Luca, dice, è uno scontro tra concezioni del mondo. Poi invece Stefano, più che altro evidenzia una differenza tra culture dove quella occidentale condanna senza se e senza ma la violenza sulle donne e quella musulmana la tollera ritenendola normale. Sulla questione della Danimarca c'è Gennaro, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che scrive: se devo essere sincero, pur essendo avversario dell'immigrazione islamica, trovo la legge sul sequestro dei beni dei dei migranti in Danimarca piuttosto di cattivo gusto. E Lidia dice: lo scontro di civiltà e di religione è solo un pretesto, ragioni di economia, di controllo, di fonti energetiche e di potere sono alla base di tutto. Continuerò poi con la lettura dei vostri messaggi, ma tra poco parleremo del caso Di Quarto e intanto vi ricordo anche, visto che ci siamo, quali sono le notizie più importanti della giornata. L'attentato jihadista a Istanbul, i morti sono 10, 8 sono cittadini tedeschi, 15 feriti. I terroristi, dice la cancelliera Merkel, sono nemici di tutta l'umanità. Immigrazione. Come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca sequestrerà i beni dei migranti per coprire le spese dell'accoglienza. La vicenda del comune di Quarto, il Movimento 5 Stelle espelle la sindaca Capuozzo, ma lei non si dimette. Napoli, una ragazza di 19 anni muore durante un aborto in ospedale. I parenti presentano un esposto alla polizia e per le donne morte di parto gli ispettori del ministero rilevano criticità in 3 ospedali su 4. Privacy, Strasburgo dice sì al controllo sull'uso delle mail da parte dei dipendenti. L'utilizzo per fini privati giustifica il licenziamento. Il Sanremo bis di Conti, sul palco Garco, Virginia Raffaele e Ghenea, ospiti Ramazzotti, Zero, Pausini e Pu. Calcio, Roma e Milan, panchina attaccate un filo. Passiamo quindi alla vicenda del comune di Quarto, che vi ho ricapitolato varie volte in questi giorni da quando è scoppiata la polemica politica lo scorso 6 gennaio, il giorno della Befana, vi ricordate, scaturita dall'inchiesta su presunte infiltrazioni camorristiche nel comune di Quarto, vicino Napoli, gestito da una giunta 5 Stelle con una sindaca, Rosa Capuozzo, appunto del Movimento 5 Stelle, che sulla quale si sono scatenati gli attacchi, soprattutto la polemica politica del PD, che ne ha chiesto diverse volte le dimissioni, così anche il nuovo centrodestra. Oggi vedevo anche Maria Stella Gelmini di Forza Italia. È stata qui ospite Rosa Capuozzo a Effetto Notte proprio il giorno in cui è scoppiata in modo clamoroso questa polemica, cioè appunto il giorno della Befana. Aveva detto allora, e poi ha ribadito ancora in questi giorni, che lei è parte lesa in questa inchiesta, che non ha nessuna intenzione di dimettersi perché non c'entra nulla con la camorra e perché si è comportata correttamente. Ancora ieri, dopo le perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha ribadito questa intenzione di non dimettersi. Il suo legale ha detto che la perquisizione è stata fatta come persona offesa e oggi in un comunicato ha fatto sapere, anzi facciamo sentire direttamente la lettura di questo comunicato da uno dei consiglieri, sono 15 su 24 quelli che la sostengono nella giunta, Gianluca Carotenuto, consigliere appunto del comune di Quarto. Il sindaco, nonostante la sua espulsione decretata stamattina dal Movimento 5 Stelle e il gruppo di consiglieri di maggioranza, sono decisi a continuare. Al di là dei colori politici, come già detto, il nostro prioritario senso di responsabilità verso i cittadini tutti ci impone di continuare a amministrare con coscienza ed onestà il nostro territorio come fatto fino a oggi. E potrebbe esserci il rischio anche per questi 15 consiglieri di essere espulsi, poi sentiremo. Ma che cosa è cambiato rispetto al 6 gennaio? Il Movimento 5 Stelle l'ha difesa strenuamente per diversi giorni, poi ieri Beppe Grillo ne ha chiesto le dimissioni, oggi è stata espulsa ufficialmente. E, però negli ultimi atti dell'inchiesta del PM Woodcock sul presunto voto di scambio e ricatti tra i pentastellati a Quarto, affiorano altre pesanti circostanze, cioè che il Movimento Nazionale era pienamente consapevole già dal 25 novembre del ricatto esercitato sulla sindaca dal consigliere, anche lui del Movimento 5 Stelle, poi espulso dal Movimento, Giovanni De Robbio, che le diceva: anche tu stai in una casa che è frutto di abuso edilizio, quindi non recalcitrare troppo da quelle che sono le mie iniziative. Insomma, voleva fare un po' il maneggione, poi è stato espulso. E secondo queste ulteriori accuse da questa inchiesta, il Movimento 5 Stelle a livello nazionale pensava di risolverla col silenzio. Sentiamo a questo proposito, rispettivamente a questi presunti ricatti di questo Giovanni De Robbio, di questo consigliere, che cosa aveva detto Rosa Capuozzo qui a Effetto Notte il 6 gennaio. In realtà, se viste adesso, vanno un altro senso, però in quel momento erano pressioni politiche. È una visione completamente diversa dalla pressione politica. Poi si arriva all'altra questione, quella della casa e tutto, però anche in quel caso non ci sono minacce. Quindi non si può denunciare una non minaccia, sarebbe stata una calunnia da parte mia, un interessamento di questa persona che mi diceva che c'erano dei problemi, di non preoccuparsi, ma non c'è stata mai nessuna minaccia, quindi fondamentalmente non poteva esserci una denuncia da parte mia. Ora vorrei sentire il parere di Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, che saluto. Buonasera Toninelli. Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Quindi che cosa è cambiato rispetto a giorni fa dal fatto di sostenerla e adesso di espellerla, insomma, di dire che si deve dimettere? Abbiamo visto anche il video del triumvirato, no, di Battista, Fico, Di Maio. Beh, è cambiato moltissimo e penso che si capisca anche dalle parole della sindaca Capuozzo. quando afferma sia ascoltato adesso sembra la cosa molto diversa. Che cosa intendo dicendo questo? Intendo che le intercettazioni che sono uscite ieri sera e solo ieri sera sono molto chiare, e in questa intercettazione la sindaca Capozzo, parlando con un'altra consigliera del Movimento 5 Stelle, dice chiaramente di essere ricattata da quel De Robbio che il Movimento ha espulso prima, circa 10 giorni prima dell'arrivo dell'avviso di garanzia della magistratura, perché non rispettava il programma del Movimento 5 Stelle, voleva inciuciare con delle poltrone e con delle assegnazioni private di gestione dello stadio e quant'altro. Lei aveva contezza della gravità delle minacce e dei ricatti, e soprattutto aveva contezza che dietro questa persona che la ricattava c'era la camorra, perché quando lei dice che questa persona, se non ottiene nulla, rischia la vita, significa che aveva perfettamente capito. Lei è stata molto brava a respingere tutte le richieste di questa persona che probabilmente rappresentava la camorra, dicendo tutto di no, e questa è una vittoria ed è sicuramente la dimostrazione che non c'era infiltrazione mafiosa lì dentro, ma ha commesso purtroppo un errore, è l'errore di non andare immediatamente a denunciare, perché i principi fondativi, fondanti del Movimento 5 Stelle sono quelli della legalità. Appena noi sentiamo, abbiamo il sentore che ci sia qualcosa che non va, lo dobbiamo denunciare immediatamente. Non solo, purtroppo, ripeto, purtroppo non l'ha fatto, ma non l'ha comunicato anche a Luigi Di Maio, Roberto Fico, che sono i responsabili anche del territorio, ovviamente. Perché, scusi, Toninelli, dalle intercettazioni sembrerebbe che invece fossero informati? No, oggi abbiamo smentito, come avrà sicuramente visto anche lei. Quanto affermano le intercettazioni, quanto affermano falsamente i giornali, non è quell'affermazione di Roberto Fico, andate avanti tranquilli. Si riferisce ad una domanda fatta da un consigliere del Movimento dicendo ci date spiegazioni sul perché De Robbio è stato espulso, non assolutamente sul fatto che Luigi Di Maio o Roberto Fico sapessero della gravità dei ricatti. Questo non c'è assolutamente, questo è totalmente falso. Il Movimento 5 Stelle non sapeva che c'erano i ricatti della camorra, il Movimento 5 Stelle sapeva che c'era una persona del Movimento che è stata espulsa, che voleva fare cose contro i principi del Giovanni Movimento, De Robbio, contro il programma De Robbio, contro il programma del Movimento. Questo significa che abbiamo gli anticorpi, prima ancora della magistratura, per cacciare le persone che non rispettano il programma. Poi è arrivata la magistratura, e per questo particolare, per il fatto che non ha denunciato in procura chi la stava ricattando, che oggi non può portare avanti il simbolo del Movimento 5 Stelle. Toninelli, mi dico una cosa, come mai non è stata espulsa con i voti online degli attivisti, degli iscritti, ma in questo modo? Perché non c'è assolutamente, quando viene un principio essenziale, noi siamo, io dico veramente molto umilmente, un progetto di legalità, e penso che siamo una sorta di patrimonio nazionale della legalità. Non possiamo permetterci neppure di apparire disonesti, come diceva Borsellino, e quindi noi non possiamo permetterci di avere delle ombre o dei dubbi. Chiaro. Ci sono ombre e dubbi, noi dobbiamo dire di no, perché dobbiamo far capire alla mafia, a tutte le criminalità che purtroppo hanno bussato alle porte del Partito Democratico, il Partito Democratico in molte occasioni l'ha aperta, tutte le volte che ci verranno a bussare, siamo convinti che lo faranno ancora, con la porta gliela resterà chiusa. In faccia alla mafia. Toninelli ha citato il PD, faccio sentire Renzi che cosa ha detto oggi in un'intervista a Repubblica. Questa giovane sindaco aveva chiesto un aiuto ai dirigenti del suo partito, non si capisce bene se l'ha ottenuto o no, se qualcuno era a conoscenza di ciò che stava accadendo e ha preferito tacere per evitare conseguenze. Personalmente mi sembra davvero ingiusto buttare la croce addosso a lei, quindi se lei mi domanda, lei si sarebbe dovuto dimettere, fermo restando che le dimissioni sono una valutazione personale, dico no, io credo che lei avrebbe dovuto eventualmente denunciare chi la stava ricattando o minacciando, ma certo non dimettersi, perché in quel posto l'hanno messa i cittadini. Toninelli, abbiamo veramente 20 secondi per rispondere, secondi, poi la devo lasciare. Le dico che Renzi ci dà ragione sul fatto che non abbia fatto la denuncia alla procura, quindi ne siamo ben felici, ma altrettanto prendiamo atto del fatto che Renzi oggi è diventato un garantista e mantiene condannati e corrotti all'interno del partito. Sono 83 gli esponenti del PD che solo nell'ultimo anno sono stati sottoposti ad indagine o arrestati, li hanno difesi tutti. Se facessero o se avessero fatto quello che abbiamo fatto noi, con tutta probabilità oggi l'Italia sarebbe un paese dove domina la legalità e non la corruzione. Grazie Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, grazie. Abbiamo la viabilità di corsa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti sono l'attentato jihadista a Istanbul, una strage di turisti tedeschi, un kamikaze dell'ISIS si fa esplodere vicino alla moschea blu nel centro storico della città, e poi la sindaca di Quarto, ne abbiamo appena parlato, non si dimette, Grillo la espelle dal movimento, e intanto il triunvirato del Movimento 5 Stelle Di Maio, Di Battista e Fico si difendono. E ancora una notizia che riguarda la morte di una 19enne dopo l'aborto a Napoli. La famiglia denuncia la sua morte. E poi, a proposito dei decessi in sala parto a dicembre, le 4 donne morte, gli ispettori del Ministero della Sanità hanno rilevato criticità in 3 ospedali su 4. Europa 24 notte. Parliamo di energia per lo spazio europeo. Sarà inaugurato ad aprile a Torino uno dei 3 laboratori di riferimento individuati dalla Commissione europea e destinati allo sviluppo della ricerca energetica. Si chiamerà Energy Center e radunerà ricercatori europei specializzati nel settore energetico. Per realizzare questo polo d'eccellenza sono stati utilizzati fondi europei per un totale di 14 milioni di euro. Solo con l'innovazione e il dinamismo si esce dalla crisi, così ribadisce Giuseppina De Santis, assessora alle attività produttive del Piemonte. L'ha intervistata Cristina Carpinelli. L'Energy Center è un progetto che è frutto di un lavoro congiunto fra gli enti pubblici, le strutture di ricerca del Politecnico e una grande fondazione bancaria quale Compagnia di San Paolo. Si è fatto peraltro tutto un lavoro preliminare di andare a vedere cosa fanno in altri paesi, cosa si fa in altri paesi europei sullo stesso tema, e abbiamo verificato che in effetti è utile avere un luogo fisico anche dove possano confrontarsi contemporaneamente esperienze di ricerca, esperienze di innovazione, esperienze di ricerca diciamo accademiche, esperienze di ricerca e innovazione delle imprese e opportunità e esigenze delle pubbliche amministrazioni. Dico opportunità perché le pubbliche amministrazioni finanziano direttamente una serie di operazioni che hanno a che fare con l'energia e con l'efficientamento energetico, esigenze perché appunto le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di capire come fare a fare delle cose che da un lato riducano le bollette e migliorino l'ambiente, ma dall'altro, se possibile, aiutino anche con una domanda pubblica evoluta, aiutino le nostre imprese a stare allo stato dell'arte delle tecnologie. L'Energy Center è stato interamente finanziato da soggetti locali, sì. Quindi il Comune di Torino ci ha messo l'area, il Politecnico un'expertise generale, Compagnia di San Paolo una quota rilevante, il cofinanziamento, Regione Piemonte ha usato una quota delle risorse provenienti dal PORFESR, dai fondi strutturali europei. Invece il tema della collocazione lì di una parte del JRC europeo è frutto soprattutto dei rapporti tenuti dal Politecnico con ISPRA e in genere con le strutture dell'Unione Europea. Dunque un centro di eccellenza per la ricerca che in qualche modo rientra in un progetto di innovazione e dinamismo come basi per la ripartenza, per uscire in qualche modo dalla crisi? Certo, certamente, perché se c'è una cosa chiara dai dati che pure per tanti aspetti sono ancora contraddittori sulla ripresa, c'è, non c'è, dov'è, com'è, quello che è evidente è che in tutti questi anni che sono stati così difficili per la manifattura c'è una quota di imprese che non solo non ha avuto difficoltà, ma è addirittura cresciuta. Queste imprese tendenzialmente sono accomunate da 2 elementi, uno è la capacità di esportare, il secondo tuttavia e non meno rilevante è la capacità di stare sulla frontiera dell'innovazione tecnologica. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Dario Ricci, sento uno scricchiolio. Sarà la panchina di Rudy Garcia, ma direi che a questo punto è già bella che rotta, no? Perché, come sapete, Luciano Spalletti è in viaggio verso Miami, dove incontrerà il presidente americano della Roma, James Pallotta. ormai deciso l'esonero di Garcia, che pure oggi ha guidato i due allenamenti dei giallorossi a Trigoria, e sarà quindi questo grande ritorno di Spalletti nella capitale. Già ha fatto bene alla Roma, poi ha vinto in Russia la guida dello Zenit, e ora questo ritorno vedremo a cosa porterà. Un pochino, solo un pochino più salda la panchina di Mihajlovic al Milan, ma domani c'è Milan-Carpi, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Ecco, in caso di vittoria quella panchina sarebbe ancora più salda, e anche perché per il Milan si aprirebbe un po' un'autostrada verso la finale, perché in caso di qualificazione in semifinale giocherebbe contro la vincente di Alessandria-Spezia, e quindi con tutti i favori del pronostico. Però insomma, c'è da giocarla la sfida di domani. Grazie da Luigi, allora ci aggiorniamo a domani e noi ci risentiamo alle 22.